Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Buongiorno, ecco le notizie di oggi. Si allarga lo strappo tra Conte e Italia Viva dopo il via libera al processo penale Renzi. Non siamo sudditi, Conte, se vuole ci cacci. Coronavirus, i contagi salgono a oltre 60.000, in volo verso l'Italia il giovane Nicolò. Frenano le esportazioni italiane a dicembre, secondo l'Istat il 2019 resta comunque positivo. Parigi, si ritira il candidato sindaco di En Marche, colpa di un video sessuale. E nella puntata di oggi ospitiamo il commento degli avvocati della Camera Penale di Milano sulla riforma del processo. Due giorni fa invece registrata in Antartide la temperatura record di 20 gradi. Che attendibilità ha questo dato e che significato avrebbe per il pianeta? Proviamo a rispondere. Record positivo invece per il Gaslini di Genova, inaugurato il primo centro in Italia di chirurgia pediatrica robotica. E buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie a metà giornata su Radio 24. Cominciamo con la politica, perché dopo lo strappo di ieri sera con il Consiglio dei Ministri che ha approvato il disegno di legge di riforma del processo penale senza Italia Viva, oggi lo strappo si allarga con Renzi che torna sulla questione e dice: noi siamo alleati ma non sudditi. Sentiamo. Lo scontro va avanti dopo lo strappo di Italia Viva, ma le urne si allontanano, almeno secondo il volere del Quirinale, che non prevede il voto fino all'autunno. Malgrado l'assenza delle ministre renziane, il Consiglio dei Ministri approva il DDL sulla riforma del processo penale, il cosiddetto Lodo Conte Bis. Stop alla prescrizione dopo il primo grado se condannati. Per il premier Giuseppe Conte l'assenza di Italia Viva è la loro sconfitta, risponde per i renziani Ettore Rosato. Sarebbe facile raccogliere le polemiche e scendere su quel terreno. Non vogliamo farlo. Siamo interessati solo al futuro di questo paese e vogliamo che questo governo faccia le cose che servono agli italiani, a cominciare da far ripartire l'economia. Interviene anche Matteo Renzi. Il lodo Conte è incostituzionale, secondo i principali esperti. Cercheremo di cambiarlo in Parlamento prima che intervenga la Corte Costituzionale. Da parte dell'Associazione Nazionale Magistrati arrivano critiche e apprezzamenti. Dalle bozze del Consiglio dei Ministri sembra che si sia fatto uno sforzo sul processo penale, ma no al rischio di imputati a vita. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Fin qua lo scontro politico. Nel merito però della riforma del processo penale, se naturalmente arriverà in porto, i punti principali riguardano le misure per dare tempi certi ai processi, alle indagini preliminari, per obbligare i magistrati a rispettarli. Sono previste anche sanzioni. Sentiamo. Processi più rapidi, definiti in 4-5 anni, tempi più stretti per le indagini preliminari, nuove regole su riti alternativi e appello, rischio di sanzioni per le toghe nel caso di violazioni per negligenza inescusabile. Questi punti centrali del disegno di legge delega sulla riforma del processo penale, che mira a ridurre i tempi morti nel processo rendendo compatibili le nuove norme sulla prescrizione, norme queste modificate con l'intesa 3 di maggioranza, con l'esclusione di Italia Viva, e messe nero su bianco con il lodo Conte Bis. Per la prescrizione si distingue tra condannati e assolti. Per i primi resta lo stop dopo il primo grado, ma in caso di assoluzione in appello si potranno recuperare i termini di prescrizione rimasti nel frattempo bloccati. Tempi prefissati poi, massimo 5 anni per i processi penali, salvo quelli per i reati più gravi quali mafia, terrorismo e quelli di maggior rilievo contro la pubblica amministrazione. Si prevedono un anno per il primo grado, 2 anni per il secondo, 1 anno per il giudizio di legittimità. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E vi ricordo che nella seconda parte di Effetto Giorno ospiteremo il commento o il punto di vista degli avvocati della Camera Penale di Milano su i contenuti di questa riforma del processo penale. Siamo invece alle notizie sul coronavirus. Continua a crescere il numero dei contagi, siamo saliti a oltre 60.000 in Cina. In volo intanto verso l'Italia il giovane Nicolò. Facciamo il punto con Rosana Magnano. Sì, buongiorno. È iniziata questa mattina l'operazione di rimpatrio di Nicolò, il 17enne di Grado, rimasto bloccato a Wuhan. Da Pratica di Mare è partito l'aereo militare che ha il compito di imbarcarlo e riatterrare nello stesso scalo romano sabato alle 7. Il giovane viaggerà in barelle speciali isolatrici e sarà probabilmente sottoposto a quarantena allo Spallanzani di Roma. Riguardo la diffusione dell'epidemia, dopo il boom di ieri, quando le autorità dell'UBEI hanno annunciato il cambio dei parametri di conteggio, includendo anche i casi dichiarati positivi con la sola attacca ai polmoni, oltre che con i test, ora, dopo le ultime limature, sono 1.380 i decessi, tra i quali 6 operatori sanitari, e i contagi sono 63.851. Fuori dalla Cina, come conferma l'OMS, i casi non stanno aumentando drammaticamente. È tutto. Grazie Rosanna. E invece adesso torniamo sulla vicenda di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna fermato al Cairo con l'accusa di terrorismo senza alcuna prova, dice il suo avvocato, e senza un giudizio, rischia un carcere preventivo fino a 2 anni. Patrick George Zaki gode di pieni diritti. Il suo arresto è avvenuto in base a provvedimenti presi a settembre 2019. Così il presidente del Parlamento egiziano, Ali Abdel Al, che definisce un'ingerenza inaccettabile la richiesta di scarcerazione da parte del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. Domani ci sarà l'udienza per il rilascio del ricercatore egiziano fermato al Cairo e in carcere da sabato scorso. Se la richiesta non sarà accolta, il 22 febbraio i giudici decideranno se prorogare di 15 giorni la custodia cautelare. Il 27enne, da agosto a Bologna per un master sui diritti LGBT, è provato ma sta bene, fanno sapere i legali e la famiglia, che lo hanno incontrato per meno di un minuto a Talca, dove è stato trasferito da Mansura, una struttura nella quale finiscono i criminali comuni, spiegano gli avvocati. Intanto, ricordando anche Giulio Regeni, ucciso al Cairo 4 anni fa, ONG, studenti, politici, insegnanti si mobilitano lunedì il maxi corteo a Bologna. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La pagina economica: frena l'export italiano a dicembre, ma nell'anno resta comunque un dato positivo. Sentiamo. L'export italiano frena, ma il Made in Italy si salva grazie a farmaci, cibo e lusso. Lo dice l'Istat, che oggi ha diffuso i dati sulle esportazioni del 2019, aumentate del 2-3%, anche se in misura inferiore rispetto al 2018, quando erano aumentate del 3-6%. Il tasso di crescita dell'export è più sostenuto verso i paesi extraeuropei, in particolare verso Svizzera e Stati Uniti, mentre l'export verso Cina e Germania è in flessione. I settori trainanti del Made in Italy sono gli articoli farmaceutici, gli articoli chimico-medicinali, i prodotti alimentari, gli articoli in pelle e quelli di abbigliamento. Per le esportazioni italiane, il risultato del 2019 è il peggiore da 3 anni. Il surplus della bilancia commerciale tocca un massimo storico a 52,9 miliardi di euro, grazie al fatto che la crescita delle esportazioni, seppure inferiore rispetto a quella del 2018, si è accompagnata a un calo delle importazioni dello 0,7%. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a proposito di economia e di coronavirus, soprattutto, notizia uscita pochi secondi fa, secondo una analisi del Centro Studi di Intesa San Paolo sulle ricadute economiche del coronavirus, la crescita annua della Cina potrebbe registrare un rallentamento fino al 5% nelle ipotesi, diciamo, di scenari peggiori. E adesso invece con la cronaca veniamo in Italia. È stato arrestato un avvocato romano accusato, insieme a uno dei Casa Monica già in carcere, di avere gestito gli equilibri e la pace tra i clan mafiosi di Ostia. Arresti domiciliari per l'avvocato romano Lucia Gargano, accusata di aver fatto da garante per mantenere la Pax mafiosa assieme a 2 esponenti criminali come Salvatore Casamonica e il capo ultralaziale Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic, ucciso a Roma il 7 agosto scorso al Parco degli Acquedotti. Questo per scongiurare una guerra tra clan ad Ostia. L'ordinanza riguarda anche Salvatore Casamonica, già in carcere al 41 bis. Entrambi sono indagati per concorso esterno in associazione mafiosa. L'avvocato Lucia Gargano e Salvatore Casamonica Casa Monica, in concorso tra loro e con Fabrizio Piscitelli, detto Diaboliche, hanno contribuito a perfezionare un accordo finalizzato a stabilire la pace tra il clan mafioso Spada e un altro gruppo criminale operante ad Ostia, capeggiato da Marco Esposito, detto Barboncino, contribuendo così a conservare la capacità operativa degli stessi Spada. Le indagini sono state portate avanti dalla Guardia di Finanza e coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Torniamo sull'incidente ferroviario a Frecciarossa una settimana fa a Lodi. Un difetto allo scambio, oltre ad un errore umano, sarebbe stata la causa di questo incidente. Lo hanno rivelato le perizie realizzate dalla procura di Lodi. È indagato anche l'amministratore delegato di Alstom, Michele Viale, e l'allerta per questo si sposta dunque su tutta Europa. Tra i nuovi indagati nell'inchiesta sul deragliamento del Frecciarossa di Lodi c'è anche il nome dell'amministratore delegato di Alstom Ferroviaria, Michele Viale, finito nel registro degli indagati per consentire gli accertamenti tecnici sulla catena di realizzazione e controllo dell'attuatore prodotto dal colosso francese Alstom nello stabilimento di Firenze e che gli operai avevano installato la notte dell'incidente durante i lavori di manutenzione. A lui sono contestati i reati di disastro ferroviario, omicidio e lesioni, tutti a titolo colposo, gli stessi contestati ai 5 operai di RF. Per gli inquirenti, infatti, il nuovo attuatore aveva un difetto interno di fabbricazione, nel dettaglio un'inversione dei cablaggi, sospetto confermato anche in commissione lavori pubblici al Senato da Marco D'Onofrio, direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, difetto che si aggiungerebbe all'errore umano degli operai indagati dalla procura di Lodi per il disastro e la morte dei due macchinisti. Per la Polfer lo scambio doveva trovarsi chiuso, ma era aperto sul binario di servizio, e una comunicazione urgente inviata mercoledì sera all'ANSF dalla procura di Lodi ha fatto scattare un alert alla National Safety Authority dell'Unione Europea su tutti gli attuatori prodotti nel lotto del pezzo fallato, ma anche i dispositivi installati nelle ultime settimane. RFI ne ha sospeso cautelativamente la posa. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. In Francia si ritira il candidato del partito di Macron per la corsa sindaco di Parigi, colpa di uno scandalo sessuale. J'ai décidé de retirer ma candidature. Corsa elettorale finita per Benjamin Griveaux, il candidato del presidente Emmanuel Macron, sindaco di Parigi. In un videomessaggio, l'ex portavoce del governo ha annunciato il ritiro dopo la diffusione su internet di un suo presunto video intimo insieme a dei messaggi a sfondo sessuale. Immagini ancora da verificare, sufficienti però a far crollare la candidatura dell'aspirante primo cittadino della Repubblica En Marche, che nei sondaggi veniva dato al terzo posto dietro al sindaco uscente, la socialista Anne Hidalgo, e alla repubblicana Rachida Dati. Griveaux, nella sua breve dichiarazione, ha parlato di attacchi ignobili, sottolineando la necessità di proteggere la sua famiglia dal torrente di fango che lo ha investito in queste ultime settimane. Unanime la reazione di sdegno della classe politica francese contro la diffusione delle immagini, rivendicata dal controverso artista russo Piotr Pavlansky, che in un'intervista al quotidiano Libération ha dichiarato di aver compiuto il gesto per denunciare l'ipocrisia di Griveaux. Rimasta senza un pretendente alla poltrona di sindaco della capitale, adesso la Repubblica Marche dovrà correre ai ripari nominando al più presto un sostituto. Il tutto a solo un mese dal voto. Danilo Ceccarelli, Radio 24. 13 e 12 minuti, ci scusiamo per il difetto tecnico sulla messa in onda del servizio da Parigi. Facciamo una piccola pausa, effetto giorno torna tra poco con tutte le altre notizie. 349-238-6666 per i vostri commenti, e avremo il punto di vista delle Camere Penali di Milano, gli avvocati dunque sulla riforma del processo penale che è stata approvata in disegno di legge questa notte, che ha provocato le divisioni politiche di cui abbiamo parlato nella prima parte di effetto giorno tra Conte e Renzi. Tra poco. Cara, ti presento una nuova collega. Salve. Con internet è eccezionale. Ieri ha connesso 10 dispositivi al volo. E poi come conosce le strade lei? Diglielo un po'. Ford Focus con modem 4G e navigatore con schermo 8 pollici. A 295 euro al mese, IVA esclusa, con anticipo zero. E in più assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria incluse. Il noleggio Ford All Inclusive va tutto di serie. Ed è per tutti, privati, aziende e partite IVA. Effetto giorno. Queste le notizie di oggi. Politica dopo lo strappo sulla riforma del processo penale approvata senza Italia Viva. Renzi accusa noi alleati, non sudditi. Conte, se vuole, ci cacci. Effetto giorno, il punto di vista degli avvocati sulle novità previste per velocizzare i processi. Coronavirus continua a espandersi, l'epidemia in Cina, oltre 60.000 contagi. Parigi, si ritira il candidato del sindaco di En Marche dopo la diffusione di un video sessuale. Esportazioni in frenata a dicembre, secondo l'Istat, il 2019 resta comunque positivo. Nuovo traguardo per l'ospedale Gaslini di Genova, ha inaugurato il primo centro di chirurgia robotica pediatrica in Italia. Le 13:16, nuovo buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Dunque, avete sentito lo strappo dai titoli di oggi, lo strappo tra Conte e Renzi si allarga ancora di più dopo l'approvazione ieri sera in Consiglio dei Ministri di un disegno di legge di riforma del processo penale che conteneva anche la soluzione sul tema della prescrizione col cosiddetto lodo Conte, che sapete è stato il tema di discussione politica. Al di là di questo, e se la riforma andrà in porto, ci sono da valutare i contenuti di questa riforma del processo penale. Tante le novità, con l'intenzione di accorciare i tempi dei processi, soprattutto dare tempi certi ai processi. Tra le novità, per esempio, il fatto di andare in giudizio soltanto con solide prove, quindi il pubblico ministero avrà l'obbligo di chiedere l'archiviazione dell'inchiesta se gli elementi acquisiti durante le indagini sono insufficienti o contraddittori. Poi ci sono i tempi contingentati per le indagini preliminari: 2 anni per i reati gravi come mafia e terrorismo, 1 anno per i reati minori, tempi contingentati anche per i processi e sanzioni per i magistrati, sanzioni disciplinari per i magistrati che non riusciranno a rispettare questi tempi, da cui la critica anche dei magistrati stessi, che dicono senza risorse per velocizzare la macchina amministrativa si scarica solo sull'attività del singolo magistrato la questione dei tempi della giustizia. Ma insomma, noi abbiamo chiamato per fare un commento dal punto di vista degli avvocati di queste novità Andrea Soliani, presidente della Camera Penale di Milano. Buongiorno. Buongiorno a voi. E benvenuto. Allora, si è parlato molto del tema della prescrizione che si blocca dopo il primo grado di giudizio in caso di condanna e va avanti invece il termine della prescrizione in caso di assoluzione. Prima di arrivare a questo, che è stato poi l'oggetto della discussione politica che ha conquistato anche i titoli dei giornali, però io le vorrei chiedere di entrare nel merito, dal vostro punto di vista, di quello che si sa di questi primi, diciamo, passi di questa riforma del processo penale. Intanto sulla questione dell'obbligo dell'azione penale solo se con solide prove, cioè il PM potrà procedere solo se ci saranno solide prove. Potrebbero esserci meno processi, per esempio, Soliani? Sì, certo, la prospettiva, l'idea è proprio quella, è quella di mandare a giudizio meno processi e mandare a giudizio soltanto quei processi all'interno del quale vi siano prove che possono apparire come capaci di vedere affermata poi la penale responsabilità. Questo potrebbe essere un primo filtro che in qualche modo potrebbe contribuire a velocizzare quei processi che invece verrebbero celebrati. Ecco, intanto vedo che gli ascoltatori stanno già scrivendo al 349-238-6666, potete continuare a farlo, a commentare queste notizie anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno. Scrive un ascoltatore che non diamo il punto di vista delle vittime, e invece no, non è così, perché insomma, stiamo parlando col Presidente della Camera Penale di Milano che difende tanto gli accusati quanto le vittime all'interno dei processi, no? Per cui il vostro è un punto di vista in questo caso che è il vostro punto di vista, ma si adatta anche a punto di vista degli avvocati difensori o accusatori in caso di vittima di un qualche reato previsto. Senta, sulla questione appunto di velocizzare il processo, no? Qual è il vostro punto di vista, diciamo, e soprattutto come giudica questi accorgimenti, cioè un contingentamento dei tempi per le indagini e per la durata vera e propria del processo, con sanzioni per il magistrato che non le rispetta? Allora, al di là del tema della sanzione rispetto al magistrato che non le rispetti, che è un tema sul quale evidentemente bisogna intervenire anche con maggiori risorse, bisogna valutare quale sia lo strumento di reazione adeguato nel caso in cui questi tempi non vengano rispettati. Credo però che certamente si debba andare nella direzione di velocizzare il processo nell'interesse delle vittime, nell'interesse degli indagati, nell'interesse della cittadinanza. Le misure che vengono in qualche modo immaginate, se si ha riguardo a tutte quelle misure che attengono, diciamo, alla fase precedente rispetto al processo, in linea generale mi paiono condivisibili, poi naturalmente è il dettaglio che rende davvero condivisibile o meno quello che si intende fare, quindi io ho avuto modo di intravedere molto velocemente questo testo, si tratta poi di studiarlo con maggiore attenzione. Senta, ma Soliani, come funzionerebbe, scusi se l'ho interrotta, ma come funzionerebbe in caso di appunto tempi previsti, contingentati per le indagini preliminari, ammettiamo, o anche per la definizione del processo, tempi non rispettati da parte del magistrato, che fine fa quel procedimento? Che fine farebbe quel procedimento? Si perde, no? Non si perde. Era quello che dicevo prima, poi dipende da quali siano le sanzioni, perché le sanzioni sono sanzioni eventualmente di carattere disciplinare, il processo evidentemente non si perde, è solo un tema di responsabilità del magistrato. Se invece vi fossero delle sanzioni di carattere processuale potrebbe essere una cosa diversa. Da qui la necessità di capire poi i dettagli. Certo. Posso aggiungere, sì, rispetto a quel che dicevo prima, che invece un tema secondo me di enorme interesse o di enorme attenzione è quello relativo al comprendere poi che cosa facciano le garanzie dei soggetti che stanno all'interno del processo nel momento in cui ci si immagina qualche modifica. Faccio 2-3 esempi. Molto bene andare verso una maggiore informatizzazione delle notifiche, però noi dobbiamo essere sicuri che ci sia un'effettiva conoscenza del processo da parte del diretto interessato, perché poi questo è il tema centrale, non perdere la garanzia vera. Senta, oppure... Soliani, prima di fare un altro esempio, però, visto che il tempo a disposizione non è moltissimo, voglio arrivare anche al tema molto discusso della prescrizione. Le chiedo se lei ha capito, se voi sapete, se è chiaro insomma quello che come funzionerà, perché abbiamo capito che la prescrizione si blocca in caso di condanna in primo grado, poi i termini nella prescrizione in caso di assoluzione in secondo grado vengono recuperati, quindi si torna diciamo in pari e quindi si va verso una definizione coi tempi normali di un processo eventualmente in Cassazione. Ma che succede in secondo grado invece in caso di condanna? Si ribloccano anche in questo caso i tempi della prescrizione o no? Posso dire che non l'ho capito. Non lo sa ancora nessuno. Ho provato a cercare, non l'ho capito. Mi rimane l'idea che vi sia un trattamento differente tra l'assolto e il condannato, il che tende a violare uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento, la presunzione di non colpevolezza. Quindi io continuo a restare dell'idea che sulla prescrizione l'unica soluzione sia quella di non addivenire a una prescrizione che possa essere sospesa all'infinito. Dobbiamo tornare ad essere un paese in cui, salvo per i reati gravissimi, la prescrizione ha una sua durata e i processi quindi hanno una loro durata. Certamente poi vanno velocizzati e con un'attenzione estrema sulle, diciamo, attività che vengono svolte per velocizzare questi processi. Grazie Andrea Soliani, Presidente della Camera Penale di Milano. Grazie. Grazie a voi. E questo era solo un punto di vista, naturalmente non di tutti gli avvocati, di questo singolo avvocato, come rappresentante anche della Camera Penale di Milano. Ragionamenti se ne potranno fare tanti, li faremo e li faremo più avanti. Adesso invece l'anticipazione del reportage, cambiamo decisamente pagina, di domenica prossima. Gigi Donnelli torna in Donbass. A quasi 6 anni dall'inizio della guerra nel Donbass, l'Ucraina avrebbe un piano per garantire che le elezioni locali si svolgano alla fine dell'ottobre di quest'anno nell'intero territorio del paese e dunque anche nelle due regioni separatiste dell'est. Lo ha detto Andriy Yermak, il nuovo capo dell'ufficio presidenziale a Kiev. Si tratterebbe di un passo forse decisivo per iniziare a ricostruire in un quadro nuovo l'integrità territoriale delle zone che con l'appoggio di Mosca si sono staccate dal percorso europeista intrapreso dal paese con la rivoluzione del 2014. Per Maria Advieva dell'Università Karatsin di Kharkiv non esistono comunque dubbi sull'orientamento generale della società, dei giovani in particolare, anche grazie ai passi e alle aperture compiute in questi anni dall'Europa nei confronti di Kiev. Io parlo molto con i giovani e loro vogliono far parte dell'Europa e sono sicura che in breve tempo entreremo nell'Unione Europea o vi stringeremo qualche alleanza, ma non riallacceremo i rapporti con la Russia. Non sono in molti ad essere scontenti perché, grazie all'esenzione dal visto, si può viaggiare liberamente anche in Europa. Insomma, è come se non esistessero confini. Ora però comprendiamo che il processo non sarà così rapido come speravamo inizialmente. Gigi Donnelli, Radio 24, Sole 24 Ore. :13:25 è venerdì e come ogni venerdì vogliamo congedarci da questa settimana di notizie su Effetto Giorno all'ora di pranzo con gli ascoltatori, raccontando anche una bella storia, una buona notizia che arriva proprio dalla cronaca di questa settimana ed è l'inaugurazione all'ospedale Gasini di Genova del centro di chirurgia pediatrica robotica ed è il primo in Italia. È con noi Girolamo Mattioli, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Grazie. Direttore dell'unità chirurgia pediatrica e dell'ospedale Gaslini di Genova, ma a questo punto anche il coordinatore di questo nuovo centro di chirurgia robotica pediatrica. Così, parlando diciamo tra amici al bar, sono naturalmente argomenti molto tecnici, cosa cambia? La peculiarità è che il robot usato ormai frequentemente nel paziente adulto, sì, entra in un ospedale pediatrico, quindi con tutto quello che sono le competenze, le specificità dell'area pediatrica. E come funzionerà questo centro di chirurgia? Io ho visto delle immagini, è molto suggestivo, diciamo la chirurgia robotica non è una novità, la conosciamo un po', però in questo caso come funzionerà? Questo è un sistema che permette di rendere facile la chirurgia mini-invasiva, può essere usato in molti settori, è nato per i cardiochirurghi, noi facciamo tante altre cose. Non sbagliamoci pensando che il robot sostituisca l'uomo, quindi la parola robot forse non è neanche corretta, è un'elevatissima qualità tecnologica che migliora le performance fisiche del chirurgo, senza mai sostituirlo. E il fatto che sia all'interno di un ospedale pediatrico unisce il massimo della tecnologia al massimo delle competenze che ci sono all'interno dell'Istituto Gaslini. Ecco, ma che significato ha, che valore ha per la medicina italiana e per la chirurgia italiana questo traguardo raggiunto dal Gaslini? Il Gaslini ha un'enorme esperienza di chirurgia complessa. La tecnologia migliora i risultati? Io non lo so se migliora i risultati, sicuramente rende facile procedure che per ora sono fatte solo da pochi esperti, quindi aumenteranno velocemente il numero di esperti e si potrà offrire un intervento ad altissimo livello tecnologico, quindi riduzione del dolore, migliori risultati a un maggior numero di bambini, con le garanzie di un ospedale pediatrico. Grazie allora per averci raccontato questa pagina importante della medicina e della chirurgia italiana con l'inaugurazione del nuovo centro di chirurgia pediatrica robotica al Gaslini, al dottor Mattioli. Grazie e davvero buona giornata. Grazie a voi. 13:28, facciamo un piccolo break, torniamo tra poco con tutte le altre notizie. Effetto Giorno. Buongiorno, ben ritrovati, queste le notizie di oggi. Politica, si allarga lo strappo sulla giustizia tra Conte e Italia Viva. Renzi, noi alleati, non sudditi. Conte, se vuole ci cacci. Coronavirus, contagio in crescita, quota 63.000 casi, rientra in Italia il giovane Niccolò. Esportazioni in frenata a dicembre, secondo l'Istat, il 2019 si chiude però con un più 2,3%. Arrestato un avvocato romano insieme a un membro dei Casa Monica, garantiva la pace tra i clan mafiosi a Ostia. A Parigi si ritira il candidato sindaco di En Marche, colpa di un video sessuale. 2 giorni fa registrato in Antartide un record di temperatura 20 gradi. Cosa significa per il pianeta questo dato? Effetto Giorno, proviamo a rispondere tra poco. Di nuovo buongiorno e ben ritrovati da Alessio Maurizi, cari ascoltatori. Allora, questi titoli di oggi, i vostri messaggi come sempre al 349-238-6666 e anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno. Andiamo abbastanza di fretta, leggo un messaggio di un ascoltatore, forse non dovrei neanche leggere, sulla bella storia della chirurgia pediatrica robotica inaugurata in questa settimana al Gaslin di Genova. Scrive questo ascoltatore: un robot chirurgico costa 2 milioni a cui si aggiungono dispositivi consumabili, non so cosa vuol dire, è dimostrato che è utile solo per interventi alla prostata, viene preso solo per far sentire il chirurgo più figo. Spreco di denaro pubblico. Allora io non so neanche se ci credete neanche voi a questi messaggi, ascoltatori, è sempre un interrogativo, un dilemma, però insomma io consiglio affettuosamente uno psicologo, però consiglio affettuosamente ma anche con grande determinazione, un bello psicologo, bravo per questo qua, che dalla faccia tra l'altro sembra anche un ragazzo giovane. Dai, veramente non crederete a una roba del genere, cioè di fronte a una tecnologia innovativa, incredibile, che consente di salvare delle vite con le operazioni che solo qualche anno fa erano inimmaginabili. Come si fa a parlare di spreco per una roba del genere? Comunque, c'è qualcos'altro, vediamo. Sulla prescrizione ci sarebbero tanti messaggi degli ascoltatori. Abbiamo intervistato il presidente della Camera Penale di Milano per il suo punto di vista sulla riforma del processo penale, sul tema della prescrizione in particolare. Anche qua ci si tende un po' a dividere, come su tutti questi argomenti molto divisivi, presentati anche dai media in questo modo. Invece secondo me si può cercare di capire, leggete sui giornali, oggi il Messaggero fa due belle pagine, la Stampa, ne abbiamo parlato noi, fatevi un'idea anche da soli, senza dividervi in fazioni tra Renzi, Conte, Bonafede e quant'altro. È il momento del punto del vice direttore del Sole 24 Ore. Il punto di Alberto Orioli. Il salario minimo è la nuova bandiera dei 5 Stelle e del ministro del lavoro Nunzia Catalfo, ma già divide gli alleati di governo e certo diventa materia incandescente se inserita nel clima politico che ormai tutti conosciamo. L'ipotesi Catalfo prevede 9 euro all'ora, somma che è al di fuori delle normali regole in uso nei paesi OCSE, che fissano il salario minimo al 40-60% della mediana dei salari nazionali. Fuori di tecnicismi, in Italia si dovrebbe fermare tra i 5 e i 7 euro l'ora. Sembrano spiccioli, ma 9 euro significano un aumento di costo del lavoro complessivo che oscilla tra 4,3 e 6,7 miliardi, perché naturalmente avrebbe anche un effetto di spinta per le retribuzioni dei livelli superiori. In Italia i contratti nazionali di lavoro coprono quasi del tutto lo spettro dei diversi settori. Spesso chi è fuori è ai limiti dell'illegalità, ma questa è un'altra storia. Imprese e sindacati sono da sempre titolari del tema salariale. Ciò che manca oggi è una legge sulla rappresentanza che renda certa la forza di chi negozia a nome di tutti e una nuova architettura contrattuale che possa aumentare gli importi del salario di produttività, che è l'unica via per accrescere la torta della ricchezza per poi redistribuirla. L'idea del salario minimo va solo nella direzione dello stato assistenziale ed è la degna fase 2 del reddito di cittadinanza. Occhio quindi a duplicare gli errori. Allora, come anticipato dai titoli, proviamo ad indagare attorno a questo dato che ha fatto molto scalpore, la misurazione della temperatura in una zona dell'Antartide da parte di un ricercatore, se non sbaglio, brasiliano, che ha segnato ha misurato questa temperatura sopra i 20 gradi, nuovo record assoluto è stato detto. Che significato può avere questo dato? Intanto che attendibilità ha? Ne parliamo con Massimo Frezzotto, glaciologo, che tra l'altro, buongiorno intanto. Buongiorno a tutti voi. Da poco rientrato, se ho capito bene, dalla base Concordia, dove ci sono anche ricercatori italiani, in Antartide, che è in tutt'altra zona rispetto a dove è stata fatta questa misurazione, però sempre di Antartide parliamo, e tra l'altro lei è professore anche del Dipartimento di Scienze dell'Università di Roma 3. Questa temperatura, cosa ci può dire su questa misurazione, Frezzotto? Allora, guardi, questa misura esce subito dopo anche una che è stata fatta sull'isola subantartica, sì. Viene subito dopo anche un annuncio che era stato fatto appena il 6 febbraio di una temperatura molto alta di 18,3 gradi centigrafi alla base di Esperanza, che si trova a circa 63 gradi latitudine sud, per cui diciamo non è una rondine solo, ma sono già due. Ma soprattutto dobbiamo dire che i record climatici che noi abbiamo di quella zona dell'Antartide, la penisola che si trova, e quella propaggine antartica che si trova al di sotto dell'America Latina, abbiamo un aumento della temperatura negli ultimi 50 anni di 3 gradi, temperatura media, un aumento della temperatura media di 3 gradi, quando noi parliamo di un aumento di un grado in 100 anni, per quando parliamo di un aumento della temperatura a livello globale. Mm. E quindi ci aiuti a capire. Allora, intanto abbiamo capito che questa, il punto dove è stata misurata questa temperatura di 20 gradi è un punto lontano dalle zone più fredde dell'Antartide, quindi diciamo non c'è da stupirsi in generale che ci possano essere temperature sopra lo zero. Però ci sta anche dicendo che l'aumento medio negli ultimi 50 anni di 3 gradi superiore invece al grado che è stato stimato per di aumento per il pianeta, o io ho capito male, mi scusi se ce lo può spiegare. Così, però il grado è sul secolo, sì? I 3 gradi sono su 50 anni. E questo che vuol dire, quindi, Frezzotto? Per cui è molto di più, diciamo, non è 1 a 3, ma diciamo se noi lo estendiamo a livello del secolo, stiamo parlando di 6 gradi al secolo contro il grado al secolo, insomma. Comunque questo è un dato che è un trend che stiamo osservando ormai da almeno 30 anni in tutte le due zone polari, cioè abbiamo un riscaldamento molto più forte, sì. Abbiamo un'amplificazione del fenomeno dell'aumento della temperatura nelle aree polari, ecco, ma Antartide e Antartide. Che significato avrebbe e avrà qualora, diciamo, questo, come è stato già per gli ultimi decenni, questo aumento della temperatura si confermasse, dovesse estendersi ancora o insomma confermarsi nei prossimi decenni, che cosa potrebbe accadere? Allora, dobbiamo tenere presente che i nostri poli sono due motori molto importanti del nostro sistema climatico, sì? E nelle due calotte polari sono racchiusi circa 60 metri di innalzamento del livello del mare, cioè se le due calotte fondono completamente il livello del mare si alza di 60 metri. Di quanto? Noi siamo 60 metri. 60 metri. Però ovviamente questa è una situazione assolutamente non proponibile nei prossimi secoli, insomma. Però uno sbilanciamento fra quanta neve ne arriva e quanto va via come iceberg e fusione, ovviamente porta a un innalzamento del livello del mare. Attualmente il livello del mare si sta alzando di 3 mm all'anno e le due calotte polari, Groenlandia e Antartide, stanno contribuendo sempre di più a questo innalzamento. E stanno accelerando sempre di più la loro fusione, per cui diciamo questo aumento della temperatura sicuramente andrà a influenzare quello che è il bilancio di massa delle calotte glaciali e un aumento del livello del mare. In più dobbiamo tenere presente che le due aree polari sono anche il motore della circolazione oceanica, per cui insomma sono tanto lontane, ma hanno delle implicazioni molto importanti a livello planetario. Senta, Frezzotto, non lì dalla base Concordia, insomma, dalle ricerche anche italiane in Antartide, non c'è nessuna cosa che possa far pensare a una buona notizia, giusto per non lasciarci con questa idea? No, non è una questione di buona notizia, cioè l'importante è che noi stiamo continuando a raccogliere informazioni, sì. e perché è importante capire qual è la variabilità climatica e qual è il contributo dell'uomo a questo che è il riscaldamento attuale, insomma. Sì, no, perché mi ha detto che il mare si potrebbe alzare di 60 metri, mi sono un po' preoccupato. No, ho detto che se le calotte polari fondessero completamente il livello del mare si alzerebbe di 60 metri, però un piccolo sbilanciamento fra quanto arriva e quanto se ne va, cioè l'1% è già significativo, cioè vuol dire che sono 60 centimetri di innalzamento del livello del mare, per cui sono aree molto lontane da noi ma che hanno una grossa influenza su tutto quello che è il clima del nostro pianeta, sia a livello del mare che condizioni climatiche, cioè quello di 60 metri è per far capire quant'è la quantità. No, è chiaro, scherzavo, era molto chiaro, è una stima, diciamo, è una misurazione potenziale, ma che lei ha detto chiaramente non è assolutamente all'ordine del giorno prevedibile, minimamente prevedibile. Massimo Frezzotto, grazie per essere stato con noi, glaciologo, insomma, per le buone notizie ci risentiamo un'altra volta. Dall'Antartide. Anche dal calcio. Ah sì, e io speravo, come sempre a quest'ora, di tirare un po' sul fiato, di scherzare. No, buone notizie, ci sentiamo un altro giorno dopo Milan-Juventus di ieri sera, che si è chiuso con un grande trambusto. Sentimenti la stessa frase, le parole Juventus, rigore e 90° minuto. Aia. Io non ho seguito, non ho visto la partita, non sapevo molto. La tempesta è assicurata, no? 1-1. Con la Juventus che ha, insomma, molto favorita per il ritorno, non ci sarà Ibrahimovic che era diffidato, è stato ammonito, stesso per Fernandes che è stato espulso, quindi la Juventus è vicina alla finale, diciamo. Però insomma oggi tengono banco le solite polemiche arbitrali in vista di un weekend particolarmente importante e delicato, perché la Juventus ha confermato il momento grigio, non ha giocato per nulla bene ieri sera, e poi domenica sera c'è un Lazio-Inter che è un fondamentale incrocio, una svolta verso il finale del campionato sicuramente. Grazie Carlo, appuntamento con te naturalmente dopo le 14 con tutti convocati. Noi facciamo un piccolo break e siamo convocati tra poco con Giulia Crivelli, Giornali Internazionali.